Esercizio 3. Ascolta le frasi facendo attenzione alla pronuncia della T e della doppia T. 1. Metto la tuta e vado in palestra. Devi dire tutta la verità. 2. Le note musicali sono 7. È una bella notte stellata. 3. Ho una gran sete. Ho sudato le proverbiali 7 camicie. 4. Siamo venuti qui in moto. Il motto è un modo di dire arguto e spiritoso. 5. Ognuno ha il suo fato, cioè il suo destino. Questo è un fatto noto a tutti. 6. Un bruto è una persona violenta. Sta passando un brutto momento.